fare il fumo. Sì, vabbè, domani fai il fumo. E allora? Noi facciamo fumo, noi oggi facciamo arrosto. Non c'è fumo senza arrosto. Non c'è fumo senza braccia, dice quello. Che noia che è diventata anche questa radio, ma non ci riesco più a stare seduto così in radio. Dai. Anche la massima era diverso, qua mi piace starmene fuori all'aria. Vi saluto ragazzi, dai, me ne vado a un po' in giardino. A prendere una boccata all'aria, mi sento chiuso qua dentro. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Poi Gianfra, se mi vuoi telefonare già lo sai, sono... non c'è problema, ok? Ciao a todos. Ciao Cla. No, so che dopo sono in fase di cena e poi sarò in fase stagnante, quindi magari domani nel pomeriggio, magari domani pomeriggio, perché mattina sono forse impegnato. Poi vabbè, tanto è lì mio, già non si muove finché è lì, poi già ci sentiamo. Anche se non mi sta prendendo, speriamo di non inventare come cosa lì, come Marco. A prendere il giorno per la notte per il giorno, o fischi per fiaschi. Va bene, già ci aggiorniamo, dai, non ti preoccupare. Vai Nathalie, vado a prendere una boccata d'aria, ma ne sentiamo dopo, dai. Cioè, troppo, adesso voglio uscire fuori, non mi vale stare qua dentro, mi sento chiuso. No, i fischi per fiaschi li sto già prendendo, quindi quelli li prendo tranquillamente, oramai ci ho fatto abitudine, anche se non bevo, quindi è ancora più seria la questione. Non odia mai, chi non mi metto la dia domani, dai, vai Nathalie. È nata lì, non si è perduto, forse è entrata la moglie. Stamattina pensa che mi hanno anche sgridato. Una commessa mi ha sgridato. Mi sono dimenticato, ci sono entrato a sparare in un negozio senza mascherina. E io ero convinto, no? E quella, signori, si fermi. E io, ho detto, ma ormai ce l'avrò in tasca una di emergenza sempre. Se no ho perduto una fiola di merda proprio. Poi la vecchiaia, cro. E a me mi è successo un paio di volte di sentire giù in strada e mi accorgevo di non avere la mascherina. Già mi è successo anche a me, un paio di volte già mi è successo. Che sta facendo giù e senza mascherina aperta. Sì, da lunedì non si porta più fuori all'aperto, bisogna però portarla presso per quando vai negli uffici a fare la spesa, ai supermercati, eccetera, eccetera, capito? Però l'aperto non si usa più. Dai, ci sentiamo dopo. Ok, a dopo. Riprendi Nathalie, dove hai finito? No, già ero sempre qua, stavo ascoltando. Come si dice, orecchie di mercante, no? Orecchie di porco si dice. Quindi allora io sono orecchione perché ho le orecchie grandi, praticamente si dice così. Ci siamo messi bene, da due non ne fai uno buono. E a rischio, diceva Rosini, a quelli che ascoltavano. No, non ti ho capito, hai detto che chi faceva così? Vabbè Gianfra, io devo chiudere perché mia moglie si sta incavolando che devo fare la solita cosa. C'ha ragione, assolutamente. Corri, mi dici, vai. Ci sentiamo Nathalie, buona serata, alle prossime. Altrettanto. E mi devo misurare la glicemia, fare l'insulina, mangiare, giramento di scatole. Perché se la faccio più tardi poi mi tocca aspettare fino a più tardi a farmi quella della notte. Sì, lo so come funziona, non ti preoccupare. Vai e si puntua. abituato, che quelle cose sono importanti. Non stare alla radio lì a poltrire, corri, fila. Meno male c'è tua moglie che ti mette in riga. Sì, infatti. Perché sono quasi le 7, io non me ne ero manco accorto. E infatti tra poco arriverà anche la pizza, quindi me ne sto un po' in ascolto per un paio di minuti, poi me ne scappo anch'io. Vabbè, buon proseguo di serata allora. Ciao Gianfra, alle prossime. Ok Natalia, alle prossime, ciao. Hola, attenzione 10, Brecco. Attenzione sul canale 10, Brecco Var. Attenzione canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata, Brecco Var. Bravo. E chi è? Bravo. Ciao Giulio. Ciao già. Bravo. Stavo guardando la partita. Prima il ciclismo, poi la partita, adesso sta per iniziare il secondo tempo, fra un po'. E allora già. Andiamo, cata Giulio. Da Luca, e beh, tutto bene, andendi. La partita dell'italiano non è adesso. Adesso inizia il secondo tempo. Sto parlando di un'altra, però dell'Italia no. Sto parlando della Danimarca, Galles Danimarca. Ah, infatti mi sembrava strano, perché c'era l'Italia. Ciao Giulio. L'Italia che inizia? Alle 9 inizia la partita, alle 8 e mezzo c'è il collegamento, Parigi alla Vendi, e dopo alle 9 la partita. Ah, andava bene, ciao Andrea, poverina, diarrea, è diventata signorina, Castellina, diarrea, sta sempre cagando. Avevi ordinato questa medicina, domani guarda gli arrettino lì alla Ushan. Basta dargli un ormis, se vieni a casa te lo do, ti do la pastiglia. Ma bisogna tagliare piccola la gente, poi taglia grande. Anche non è da metà. No, se poi li fa male già, no. Meglio queste qua sono fermenti, capito? Una siringa, gli dà 3 tacchette, 3 volte al giorno, mattina, pranzo e cena. E magari anche qualcosa che ha mangiato, cosa ne ha da mangiare? Nulla già, tanto che è diventata signorina, da quando è diventata signorina, da ieri è diventata questi problemi. Magari sono due cose insieme, differenti l'una dall'altra, non è che sia dovuto per quello. Magari qualcosa che ha mangiato gli ha fatto male. Comunque non ha mangiato niente, ha mangiato le solite bustine, le solite crocchette. Già, non penso, non ha mangiato niente, perlomeno. Io la controllo anche troppo, guarda. Ascolto, io ho tutti e due i televisori che ho messo 100 e non appare la scritta. Che tipo di decoder bisogna comprare? 200, no 100, 200. E tutti e due, sia 100 che 200 si può fare. E chi? Quello grande, nuovo? Tutti e due. C'è il decoder DVB-T2, devi comprare. Ma per quello grande c'è un attacco particolare. No, o è SCART o è HDMI? No, SCART non è. Non è SCART quello grande? No. E allora lo devi prendere HDMI? Perché dal primo dice che smettono tutti i programmi. Ah, io ce l'ho già, io ne ho due a Mariduno. Marina non ne ha manco uno, perché sono quelli vecchi lo stesso. C'ha due Samsung, no, 3 Samsung, di cui uno è smart. E manco lì ce l'ha, io ne ho due, ma uno lo porto qua, se vediamo. C'ho un Saba 32, nuovo. L'ho comprato a seconda mano, 100 euro l'avevo pagato. Ehi, a ciao Cla. Ciao, ma no, ma anche per lo smart TV, no? No, se l'è preso dopo il 2017 è buono. E il 2018 l'ho preso. Allora tu va bene, basta mettere 200 e ti dà la schermata. Ehi. Ma perché da quando è che cambiano? Dal prossimo anno? Da gennaio. E grazie a Dio sono a posto. Quindi momento, poi si vede, a me mi basta un 32, basta avanza, non mi interessa per un televisore grande, siamo in forza. No, io ce li ho tutti e due nuovi, li avevo comprati tutti e due nuovi, tutti e due smart TV, tutti e due uguali, tra l'altro. Nel 2018, tutti e due. Va bene, continuate, dai, sto facendo cose, ho solo una domanda. Ciao Gianni, riprendi. Ciao, Torino. Stavo dicendo lui, io lo voglio fare solo quello della sala e poi l'altro magari mi capisce bisogno direttamente, tanto è già vicino. A parte c'è anche Giulio Claudio. E un saluto a tutti, dai, che sto aspettando gente, devo preparare, già partita stasera, già ci sentiamo dopo magari, ciao. Ciao Claudio. Vabbè, dai, io cosa devo fare? Devo cambiare 5 televisioni oppure comprare 5 decoder? Cosa devo fare secondo te, Gianni? Io quello buono, l'ultimo che io ho preso, che è grande, della sala, quello lì non lo cambio, prendo il decoder, invece l'altro me lo cambio, tanto quello lì c'ha i suoi anni, l'ho già aggiustato una volta, quindi quello lì lo cambio direttamente. Ma io deciderò al momento, quando sarà il momento. Per adesso, perché i miei sono tutti nuovi, sono tutti qui da schermo piatto, per cui è un peccato, è veramente un peccato, soprattutto quello che c'è nella sala, che è il più grande di tutti, si vede benissimo, tutti si vedono benissimo. Però adesso che cambia il sistema di trasmissione, ovviamente non funzioneranno, ma comunque saremo a vedere, se no se compriamo i televisori nuovi, cosa vuoi che ci dia? Sono 5 televisori che vogliono 5.000 euro e io vabbè ce li ho, cioè per quello, però insomma perché devo spendere tutti questi soldi visto che ho tutti i televisori nuovi che mi basta comprare un decoder? Quanto costerà un decoder? 50 euro più o meno, 50, 60 euro, boh. Tu lo sai quanto costa, no? Ma su internet costa una cazzata, 10 euro, 12 euro, 15 euro, poi ovvio più costa è più buono, ma basta uno da 15 euro, va più che bene. Dai, io mi aspetto che cambi la guacaglia. Cambio! Avanti, cambio! Positivo, non so se mi avete rilanciato l'antenna, buonasera 7-3. Buonasera anche a te, la stazione W1, operatore Gianni, che ti supercordializza, città di Sassari, avanti. Positivo Gianni, nella provincia di Sassari, stazione K5 qua, QDH di Rotondella, provincia Matera, che ti cordializza e ti super saluta, cambio. Papa Luigi, dai, arrivi benissimo qua, siamo sotto casa, segnale 95, 910, la radio 5, non so quanti whisky stai usando, però arrivi molto bene, io sono in compagnia di Giulio, avanti Giulio. Ok, ciao Luigi, ti ascolto con piacere per l'ennesima volta, ci siamo sentiti alcuni giorni fa anche. K5, Giulio da Sassari, avanti Luigi. Positivo Giulio, comunque qua sta Antonio, il mio QR-nome è Antonio, Giulio. Mi devi dire il tuo QRZ com'è, perché parlando con il tuo amico Gioele Barracuda non mi ricordavo il tuo QRZ. Comunque l'amico pure arriva bene qua, no? Quale whisky? Qua abbiamo semplicemente un semplice apparato, un Alan 87 con un centinaio di watt sotto, tutto qui, cambio. No, come la moneta americana, avanti ancora. È positivo, dai, avete mostrato insieme. Vai Giovanni. No, volevo solo un segnale di Radio Santiago, vedere come ti avvivo con la zona. Allora, in questo momento mi fai 9-5. Va bene, dai. Va bene, è normale, così staccato quando ti arrivo, così guarda, così sono staccato. Così fai un 5-7 oscillante, Giovanni, quanti whisky c'hai sotto tu? Adesso ho 10 watt, sto uscendo con 10 watt, però l'apparato non era al massimo, era al minimo, quindi adesso dovrebbe aver aumentato qualcosa. Positivo, sì, mi fai 5,5, vedi un pochettino, vedi che differenza ti faccio io, dai. Prova. In questa posizione qua siamo solo di... un pochettino, com'è la situazione, Giovanni? da 6 e mezzo si vanno per 5. Oh, sì, Dio, dai, quindi anche se non riusciamo ad arrivare in Sardegna, tutto non ci aiuta. Ok, a tu. Sì, da me mi fai 95.8 QSB, la radio è perfetta, la radio 5 è perfetta, il segnale parte da 95, poi scende a 8 e risale e così via. Ok Antonio, molto bene comunque la tua modulazione, sempre bella, pimpante, forte, chiara e soprattutto pulitissima. Avanti ancora! Parli con gli amici, deve essere pulitissima la cosa, la situazione, non come certi che... Allora, quindi tutto Roger, se mi conferma Giulio. Tutto Roger, Antonio. Sì, anch'io sono di Baracchino, Aero 44, Midland Aero 44, costruito dalla CTE, microfono MB più 4, e niente di più, 10 volte massimo, non di più, avanti. Positivo, positivo, lo stesso pure io, Alan. Minchia, quanto arriva forte. Un mic, tutto Roger, Giulio, cambio. Ok, sì, tutto Roger al 100%. Spero che tu riesca ad ascoltarmi ugualmente bene come io ascolto te. Vediamo un po' se c'è qualcun altro qui, anzi senz'altro c'è qualcun altro qui a Sassari, se vuole fare collegamento con te, vediamo un po'. Avanti, chi è che vuole collegare Antonio, Claudio, Natalino, decidete voi, vai, Claudio. No, io sono entrato solo per dire che arriva fortissimo, quindi era un ascolto. Ciao Antonio, buonasera, non so se mi ascolti, Claudio Sparviero dal Sassari. Qualche chilometro spostato da Sassari, avanti Antonio, 6, 5, 9 più 20 qua. Positivo, buonasera pure all'amico, dai, comunque in questo passaggio sicuramente dovremmo essere aumentato qualcosina in più, Giovanni, poi mi dai conferma tu, perché prima andavo solo di apparato, adesso ci abbiamo messo una piccolissima cosa sotto, un 757 della CTE. Saranno 100-110 watt modulanti, tutto qua, cambio. Ehi, dai, comunque arrivi 9-10-9-15, dai, con questi B adesso. Ma a me mi ascolti Antonio, Claudio Sparviero, mi ascolti, sì, 9 più 20 qua a Sassari, qualche chilometro dopo Sassari. Positivo che ti ascolto, Sparviero se non sbaglio, dai, non... Non te la prendere però, non riesco a ricordare velocemente i nomi, tutto qua, vai. Vabbè Claudio, mi chiamo Claudio Antonio, va bene, 9 più 20 arrivi, complimenti, veramente molto molto forte. Va bene, dai, ti lascio in compagnia degli amici qua di Sassari, io continuo a fare quello che stavo facendo, avanti Giulio. Ok Claudio, d'accordo, dopo eventualmente ci sentiremo. Sì Antonio, anche a me hai fatto 9 più 15, 9 più 15, sempre con un po' di QSB, però chiaramente quello è il defetto della preparazione, per cui va bene così. Io non lo so quanto riesco a farti come Santiago, spero almeno se non altro con la radio che sia buona e comprensibile. Tutto lì, avanti ancora Antonio. No, ti ripeto, come Santiago mi fai da 5 a 9, 5 a 9 oscillante, con una radio di 5, non ci sono problemi Giulio, è tutta una cosa stereofonica. Rimettiamo un pochettino se c'è ancora Giovanni, vai Giovanni. Ma Giulio, con quanti fa che stai uscendo? Saranno 120 in antenna. Come me, abbiamo lo stesso segnale, sì. Con 10 watt anch'io sto uscendo, non per watt, dai. Io ho un Galaxy Saturn Echo a tutti. Ma il nome è cambiato Gianni, ti chiama Giovanni. Il mio nome pure è Giovanni. Poi vi chiamano tutti Gianni, ma il mio vero nome è Giovanni. Infatti il 24 giulio era il mio nome. Non so, per lo scusa, io ti ho conosciuto come Gianni e va bene così. Sento rumore di alternata sotto Giovanni allora. Vediamo un po' se c'è Natalino, se vuole fare contatto anche lui con Antonio. Natali ci sei? No, non c'è. Luca ci sei? No, Luca è andato a farsi la luce, stava tornando dal mare, si è andato a fare la luce. Avanti Antonio di nuovo, dai, vediamo un pochettino, sempre bene mi ascolti? Sì, positivo, io ti ascolto bene Claudio, se non erro, giusto? Un segnale di 5-7-8 oscillante, una radio bella, pulita, non ci sono problemi Claudio. da parte mia qua l'anno 87, tutto Roigero, vai Claudio. Sì, no, ma io sono entrato solo per dirti che arrivi veramente molto molto bene, io sono un paio di chilometri fuori da Sassari, però arrivi veramente splendidamente bene, 5-9 più 20, 5-9 più 10, la radio tutto ok, no, io sto andando con un HF, sto andando con un 430 della Kenwood, microfono MC60, i watt sono 20 di portante e 40 modulati. Ti saluto Antonio, piacere averti ascoltato, ti passo Gianni, buon questo a tutti e alle prossimine, ciao ciao, vai Gianni. Ehi allora, capa Claudio dai, siamo qua, se vuoi restare non c'è problema, dai. Avanti Giulio. Ok, ciao Claudio, allora a risentirci dai, alle prossime, stasera facciamo il tifo d'Italia, speriamo che riesca a vincere anche oggi, chi lo sa, vedremo. Ok, allora Antonio, tutto bene di lavori? Qui c'è caldo, un po' di venticello, ma la giornata è molto calda. Avanti. Invece qui è caldo, qua c'è un caldo afoso che appiccicoso che si crepa. Dal caldo sono 3 o 4 giorni che c'è un caldo da morire, proprio torbido e umido che non si capisce niente come fa. Speriamo che passi in fretta, se no qua si muore, si boccheggia, carissimo Giulio. Ok, Antonio, vabbè, è purtroppo il suo tempo questo. Staremo a vedere cosa succede magari nei prossimi giorni. Comunque l'estate già è bella. Sì, beh, certamente quando c'è troppo caldo dà anche fastidio, ma non tanto il caldo, soprattutto l'umidità che dà fastidio, che incomincia uno a sudare così, senza la maglietta tutta appiccicosa addosso, senza muoversi nemmeno, senza fare il minimo movimento. E quello a me mi dà tremendamente fastidio, tocca stare sempre sotto la doccia. Va bene, comunque, ottimamente bene, di nuovo ancora la tua trasmissione, perché ripeto, mi stai facendo anche 9 più 15 in questi passaggi ultimi che hai fatto. Ottima modulazione, sempre bella, pimpante. Avanti Gianni. Ehi, adesso provo a attaccare l'altro apparecchio a vedere come arrivo con l'altro, col Cobra. Fai come credi Gianni, fai quello che vuoi, noi siamo qua, per cui non c'è problema. Va bene, dai. Avanti ancora tu. Cappa Rogero, con le scuse saluto l'amico, anche se magari non c'è più, non lo so se magari in quel ascolta, l'amico Davide che aveva chiuso tutto qui, dai. Va bene Giulio, quindi lì pure fa caldo, dai, tutto va bene che va bene, però il problema è che anche se giustamente è l'AFA, è l'appiccicoso che rende, perché se facesse solo caldo asciutto non sarebbe, ma è quell'umidità che dà molto molto fastidio. È purtroppo così, dai, non possiamo farci niente, tutto qua, vai Giulio. Ok, allora sì, in effetti è così, almeno a me personalmente mi dà fastidio l'umidità più che altro, non il caldo lo resisto discretamente, in maniera abbastanza buona, però quando incominci a fare quella piccola sudorazione senza nemmeno muoversi, quello mi dà fastidio, quello è l'effetto dell'umidità appunto, per cui è una cosa che non mi va a genio, non mi va a genio, poi io sono un po' delicato in questo senso, che ogni piccolissimo fastidio mi sento subito infastidito e dunque devo ricorrere sotto la doccia e cambiare subito la maglietta, perché non mi va di tenere una maglietta non sporca, perché in effetti non è sporca, ma sudata sì, per cui non va bene. Vediamo un po' se Gianni ha cambiato la radio, come ha detto. Avanti Gianni, hai cambiato? Ehi, dai, ho cambiato e volevo vedere come arrivavo da Antonio adesso con questa radio. Questo è il Cobra, sto provando questo qui per vedere come arriva, se arriva meglio o peggio del Galaxy. No, vabbè, arrivi bene lo stesso, dai, questo qua, se non sbaglio sull'altro era normale, questo c'è l'eco sotto, c'ha un'amplificazione leggermente in più in modulazione, però diciamo come segnale se siamo lì, siamo lì, è solo cambiato leggermente la modulazione, c'è un po' di modulazione in più, diciamo, con questo qua, Gianni. Capo, dai, questo qui è il Cobra con l'eco master. Power Plus, non so se lo conosci, microfono di vecchia era. Sì, microfono di vecchia data, degli anni 80, come c'è un amico qua, un amico mio che è appassionato di questi microfoni di vecchia data, quindi lo sento spesso parlare di M+4, M+5, M9, ma diciamo è un grosso appassionato, dai, tutto qua. Cappa, vabbè, a me piacciono molto il Summer, più 3, anche questo qui, il Master Plus è molto buono come microfono, poi c'è il Super Silent Kick che è molto buono lo stesso. E sono microfoni che sono sempre andati bene perché hanno le capsule ceramiche, quindi sparano bene, dai. C'è anche la Static adesso che è buono, però ha la capsula ceramica che ti fa uscire un po', diciamo, a molto pochi bassi, dai, e a molti acuti e pochi bassi. Andate, avanti Giulio. Ok Gianni, sì, aspetta, fammi capire, adesso non mi ricordo bene, mi sembra che la volta scorsa mi avevi detto che anche tu avevi la Game Master come quella che sto usando io in questo momento, l'antenna tipo canale a pesca, però è l'originale Game Master. Avanti Antonio. Positivo, dai, vedi se mi ascoltate così, Marino, e vado solo di paracchino, se mi riuscite a copiare. No, io sto uscendo con una Blizzard 2007, Giulio. Stavo con la Ho capito. Sì, ti sento benissimo ovviamente, non c'è bisogno del 474, o meglio 747, non c'è bisogno, ti sento ugualmente bene. Santiago 8, così ti sento e non c'è problema. La radio è sempre ultima, Antonio. Per cui, no, io mi ricordavo che avevi la Game Master, io ho la Game Master montata. Vabbè, ho anche la Mantova Turbo, ma no, quella lì l'avevo tolta, mi dava fastidio. Quando soffiava il vento, fischiava le radiali e la notte mi dava fastidio. Allora l'ho sostituita e ho messo la Game Master. Ok Antonio, va benissimo così, riprendi pure e fai girare per Gianni, vai. Questa Blizzard qua, dai, tutto qui, vai Giovanni che adesso cambia la strada con un altro apparato pure a me, dai, tutto Rogero. Cappa, la Skyla V3 ci avevi? Come Gianni? Ho detto, quella che avevi prima cos'era, la Skyla V3? No, adesso, cioè, prima c'avevo la Skyla, poi ho tolto la quella lì è, sì ho capito, è tipo matto, vai, ho capito, è tipo la Mantova 5, confermo. Aspetta che sta cambiando il radio, Gianni, dopo se voglio chiedere se è quella che ha radiali lunghe, se è vero che ha radiali lunghe 2,75 m, perché mi sembra strano, quella deve essere quella nuova antenna che ha costruito diciamo la società di quei due fratelli, dai, che poi tra l'altro ormai non sono più in società per quanto riguarda la costruzione di antenne. Sì, deve essere quella, Gianni, la nuova antenna è uscita ultimamente. Ma non mi sa che quella lì è dell'assidio, questa che sta dicendo. Ah, non lo so, adesso glielo chiediamo, appena che riprende, glielo chiediamo, perché mi sa che si chiama così, non me lo ricordo, non me lo ricordo se è quella. No, quella è la Grassioli, aspetta, sto confondendo io. Quella è la Grassioli, la nuova antenna è la Grassioli, Gianni, te la ricordi? Sì, quella che c'è un po' di difficoltà a montarla, che c'ha molti pezzi, l'hanno fatta vedere il montaggio anche, che non è tanto facile, dice che devi essere esperto per montarla, non so cosa, perché c'ha molti pezzi da assemblare. No, vabbè, comunque quella lì è della Sirio, quella che c'ha, la 2007 della Sirio. Sì, Antonio, ti ascolto bene. Sì. No, volevo chiedere, prima mi stavo confondendo io, stavo pensando a una nuova antenna che è appena uscita da poco, che si chiama Grassioli, e pensavo che era proprio quella che stai usando tu adesso, invece no, No, no, perché ti volevo chiedere in riferimento sempre alla nuova antenna Grazioli, che era lunga, da viaggi erano lunghi 2,75 m, se è vero, così mi avevano detto, poi però invece, no, adesso mi sono ricordato che non è quella l'antenna che stai usando, va bene, non fa niente, Antonio, riprendi. In questo passaggio c'è stata una sovrammodulazione, Antonio, c'è stata una sovrammodulazione, questo passaggio ti ho sentito bassissimo, a differenza del precedente passaggio. Se vuoi ripetere per cortesia, se no sei già, mi sei accoppiato o mi farà la ponte. Avanti ancora, Antonio. Un attimo, io devo andare, dai, è già tardi per me. Ci sentiamo, dai, buona serata a tutti. Salutami anche Antonio. Ok, d'accordo, d'accordo, già ci sentiamo allora, dai. Buona passeggiata. So che il tuo compito è arrivato allora. Ok. Avanti Antonio, mi hai ascoltato? Antonio, non so se sei sceso dalla popolazione, ma non ti sento più, eh. Attento Antonio, non so se la popolazione ci ha abbandonato, ma non ti sento più. E ok Antonio, sì, riflette dalla popolazione. Ci sta abbandonando, va bene Antonio, va bene, dai. Ti salutato Antonio, ti ringrazio per il collegamento, dai, per il contatto, molto, molto piacevole. Ci sentiamo eventualmente in un altro momento, magari in condizioni migliori come poc'anzi. Poc'anzi era veramente bella la preparazione, 9 più 15 anche mi ha fatto, adesso si è abbassato il segnale a Santiago 5 e la modulazione chiaramente è più bassa. Ok Antonio, non so se mi stai ascoltando, io ti saluto e ti ringrazio, dai, un abbraccio, risentirci presto Antonio, grazie. Gianni ha chiuso, ti saluto da parte sua, Gianni ha chiuso per un impegno impellente. Avanti ancora Antonio. Attento Gianfranco, ci sei? Gianfranco, ci sei? Allora, attenzione Giulio, si ascolti ancora K5, Giulio, ci sei? Qua è pulita, noi ci sentiamo, se c'è qualcuno, qualche amico che ci ascolta dalla Sardegna, dalla Sicilia, può venire avanti tranquillamente, cambio. Aspetta Giuseppe, attenzione all'amico della città di Genova, si ascolti qua la K5 in Rotondella, provincia Matera, cambio. Ciao Luciano, ben ascoltato e ben sentito. Ed in queste ho con me qua c'è l'amico Giuseppe Capricorno in Pisticci, sempre provincia di Matera, vai Pisticci per l'amico Luciano. Attenzione Luciano, se ascolti K5 Sud Italia, Luciano, cambio. Luciano, se ascolti K5, dammi Roger. Positivo, un attimo, gentilmente, un attimino l'amico della Sardegna che ti facciamo subito entrare, dai, un attimino solamente. Ok Luciano, dai, ho capito che mi copi perfettamente. Vediamo, facciamo entrare l'amico della Sardegna, così vediamo se facciamo un ping pong con la Sardegna. Avanti l'amico della Sardegna. K positivo, l'amico in Olbia, non ho capito il nome, però poi me lo direi al prossimo passaggio, dai. Anche da parte tua qua 9-5, lo stesso segnale, la stessa radia. Va bene, facciamo girare per l'amico in Genova, Luciano, lo ascolti l'amico della Sardegna? Positivo, dai, positivo. Giuseppe, vai per l'amico della Sardegna. Sì, ma non penso che mi ascolta. Positivo, dai, comunque io saluto sia Luciano lì al Nord Italia e sia l'altro amico che si trova in Sardegna in questo momento. E rimetto a lui, l'amico, non ricordo il nome, Sardegna, con cui sta modulando l'amico Antonio K5, avanti per te Sardegna. Se non riprende, riprendi tu, vai. attenzione l'amico della Sardegna, ascolti? K positivo, c'è un attimo al break sotto, positivo dai l'amico in Sardegna, però mi direi il tuo nome così ci chiamiamo per nome, dai. Va bene, l'amico Luciano in Genova ti salutava e anche Giuseppe Capricorno in Pisticci, purtroppo pure lui non ti riesce ad ascoltare, tutto qua dai. Avanti l'altro break. Va bene, l'amico del break, prima breccata e poi non, va bene, tutto qua. Ok, vai l'amico della Sardegna e mi dirai il tuo nome, gentilmente. Positivo Franco, positivo. Ok Franco, vediamo un pochettino l'amico del break. Avanti, chi stava breccando su 10. Positivo dai, l'altro amico di Genova, non ho capito nome, buonasera e cordialità, K5, QDH di Rotondella, provincia Matera, che ti saluta e ti cordializza. Insieme a me c'è l'amico Franco in Sardegna, Giuseppe Capricorno e un altro amico Luciano in quelle di Genova, il tuo stesso QDH. Avanti Giuseppe, sei copiato l'amico. Tonino, tutto rosso, dai, io li copio, ma purtroppo loro non copiano me, io copio tutti, ma non mi copiano, quindi è inutile che mi rilanci il mic. Amicoli della Sardegna che stanno breccando, se state ascoltando questa stazioncina qui a Matera, Sud Italia, Pisticci, provincia di Matera. Ciao a tutti, buon proseguimento, ciao ciao, vai Tonino. Vai Giuseppe per Genova, non te ne andare, vedi che quelli gli amici di Genova ti stanno sentendo, tutto rocero. Positivo, positivo, grazie. Io sono un po' demoralizzato qui perché questa stazione che ho non serve a niente, va bene, dai, dai, per questo meraviglioso contatto, questo QSO, vi auguro una serata ovviamente e rimetto a voi Genova se ascoltate ancora la Capricorno, città di Pisticci, provincia di Matera, cambio. Non ti demoralizzare che ti sento molto bene anche. Ciao K5, poc'anzi non ho fatto in tempo a salutarti quando abbiamo fatto questo 20 minuti fa. La popolazione ci ha abbandonato. Lo faccio adesso. Ciao K5, un abbraccio, salutami, sempre Giulio da Sassari. Positivo dai, positivo all'amico che salutava K5 dai, purtroppo c'è un po' di guerremme atmosferico e quindi la propagazione è qualche portante di propagazione, tutto qua dai, quindi va e viene la modulazione. 73 all'amico che salutava K5, non ho capito il nome, rimetto a te, qua è il mio nome, va bene, lo sai, K5 QDH di Rotondella, vai. Ok, K5. Dicevo che non ho fatto in tempo salutarti poc'anzi, perché la popolazione ti aveva abbandonato, lo faccio adesso perché ti ho presentito. E ancora grazie per l'accoglimento di poc'anzi. Giulio che ti super saluta, ciao ciao K5. Positivo, ciao amico, ciao. Non ho copiato, comunque vabbè, non ci sono problemi, non ho copiato il nome, però ti saluto con i 73, ben ascoltato e ben sentito, dai, purtroppo c'è sempre un po' di propagazione, QRM e tutto. Vai Luciano, se mi ascolti sempre dalla Liguria, da Genova. Positivo dai, positivo Luciano. Vediamo un pochettino se c'è l'altro amico in Sardegna, Franco, ci sei ancora Franco? Ok dai, non lo ascolto l'amico, evidentemente si è passato. Comunque Luciano e l'altro amico dai, qua da parte mia, QRX dai, per devo fare alcuni trapacchetti. Grazie per il contatto, per le quattro chiacchiere e la K5 Antonio dal QDH di Rotondella, provincia Matera, vi saluta e vi cordializza. Cambio. Positivo dai, saluto tutti gli amici del canale 10 qua, la K5 passa in QRX per trapacchetti. La buona serata è tutto, cambio e non riprendo più. Chiappa positivo dai, ciao, ben ascoltate e ben sentite. Dai, purtroppo a malincuore devo lasciare perché mi stanno chiamando, dai. Ci sentiamo alle prossime.